TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il presidente del Consiglio Comunale e lo scontro in aula tra il sindaco di Piazza e la consigliera 5 Stelle Richetti. Panteca alla conferenza di fine anno. Il rispetto deve andare in due direzioni. Inaugurata questa mattina la prima casa di comunità di Trieste, la sede all'interno dell'ospedale maggiore sarà aperta 24 ore su 24 per problemi sanitari non urgenti. Il sindacato autonomo Confsal cita per attività antisindacale al giudice del lavoro di Trieste la cooperativa Cristoforo che gestisce i servizi al pubblico nei civici musei. Il bilancio del 2025 è un'anticipazione delle iniziative future per la giustizia sociale nella conferenza stampa Udine del garante delle persone private della libertà personale. Traccia un bilancio anche il sindacato autonomo di polizia Siulpi. I risultati sono buoni nonostante i sacrifici, costretti a rinunciare alle ferie per carenze negli organici. La donazione alla città dei coniugi Luciani nel 2024 hanno acquistato la collezione Hauser Irneri per donarla a Revoltella di Trieste, 116 dipinti di artisti locali da Flumiani a Timmel. Tra le mostre più visitate a Trieste quella dedicata all'autore del Signore degli Anelli, Tolkien, uomo, professore, autore, esplora la vita dello scrittore, il suo lavoro accademico. Basket, il commento di coach Pillastrini alla vittoria su Cremona che non basta a Cividale per entrare nella Final Four di Coppa Italia, stasera sul parquet Trieste contro Virtus Bologna. Le 12.31 ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In apertura alla politica, qualche giorno fa è partito con una intervista al sindaco di Piazza del quotidiano Il Piccolo, il Toto Nomi, per la corsa alla poltrona di sindaco del capoluogo regionale. Oggi la conferenza di fine anno del presidente del Consiglio Comunale Panteca. Un anno di sedute animate e di più, con accesi scontri. Cabinovia e Porto Vecchio, spesso al centro del dibattito, fra maggioranza e opposizione. E nell'ultima delle 31 riunioni del Consiglio Comunale di Trieste di quest'anno, una settimana fa, la frase sessista del sindaco di Piazza alla consigliera pentastellata Alessandra Richetti. Il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Panteca, criticato per non essere intervenuto in difesa della consigliera, risponde così. Io vengo additato come atteggiamento vergognoso, maschilista, femminista, me le dicono un po' di tutte, me le dicono. Allora su questo non ci faccio nemmeno caso, perché nella dialettica il Consiglio Comunale questo può venire e viene anche più aspre. Perciò per andare d'accordo non servono le stesse idee, ma serve lo stesso rispetto. Panteca aggiunge che c'è un consigliere dell'opposizione, senza farne il nome, che disturba spesso il regolare svolgimento delle sedute. Si possono avere idee diverse, sottolinea il presidente del Consiglio Comunale, ma il rispetto deve essere usato da tutti. Un anno di sedute in cui sono state adottate 53 delibere, 58 mozioni, 53 interrogazioni e 79 ordini del giorno. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inaugurata questa mattina la prima casa di comunità di Trieste, la sede all'interno dell'ospedale maggiore e sarà aperta per problemi sanitari non urgenti. Dottor Poggiana, a cosa serve una casa di comunità, questa che apre oggi a Trieste? Che tipo di servizio offre? Quali problematiche risolve? Allora, la casa di comunità è una struttura territoriale e risponde a cure non differibili a bassa complessità. Quindi non necessitano di pronto soccorso, ma devono essere comunque trovare una risposta dentro la casa della comunità. Facciamo qualche esempio. Ma banalmente una contusione che non ha necessità di grandi interventi ortopedici, un taglio superficiale, uno stato febbrile, un'influenza, la tosse, quindi che hanno bisogno di assistenza, di prime cure, ma non del pronto soccorso. Da una parte va a supportare gli ambulatori, i medici di famiglia, dall'altra parte allevia il lavoro al pronto soccorso. D'altra parte, noi questa casa comunità maggiore è un modello sperimentale perché insiste comunque l'attuale centro prime cure alias pronto soccorso con un triage unico, quindi uno smistamento che avviene già a triage se PS o se casa comunità. Giornate di operatività e orari? H24 7/7, perché questa è una casa comunità hub, quindi è aperta tutti i giorni, tutto il giorno per 24 ore, sabato e domenica compresi. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sindacato autonomo CONSAL ha citato in giudizio la cooperativa Cristoforo di Pontassieve in provincia di Firenze, che gestisce i servizi al pubblico nei civici musei della città, per attività antisindacale. Il giudice del lavoro ha fissato la data dell'udienza per metà gennaio. Altro che cooperativa sociale senza scopo di lucro, la Cristoforo Onlus, che gestisce i servizi nei musei di Trieste, sarebbe una cooperativa padronale e avrebbe creato tra i lavoratori un clima definito di terrorismo psicologico. A dirlo è il sindacato Fesica CONFSAL, che lo scorso 19 dicembre ha citato in giudizio la cooperativa davanti al Tribunale del Lavoro di Trieste per attività antisindacale. L'udienza è fissata per il 15 gennaio alle 9. Secondo CONFSAL sarebbero diffusi favoritismi nell'assegnazione dei turni, con ricadute sulla qualità della vita. La cooperativa ha smesso di pubblicare il quadro complessivo dei turni e, alla richiesta del sindacato di avere più trasparenza, l'azienda avrebbe risposto con una ventina di provvedimenti disciplinari rivolti ai propri iscritti, fra multe, sospensioni e anche il licenziamento di un 67enne fragile che aveva accumulato 4 ritardi. Il sindacato denuncia anche pressioni dirette. Dirigenti si sarebbero presentati nei musei per denigrare CONFSAL e intimorire i dipendenti iscritti, lasciando intendere che per ottenere miglioramenti fosse necessario cambiare sindacato. I lavoratori dei servizi museali sono circa un centinaio, quasi tutti part-time, una trentina sono i contratti a chiamata, i meno tutelati. Le mansioni vanno dalla cassa alla vendita dei bookshop fino alla sicurezza. La paga è di 7,50 euro lordi all'ora, lo stipendio pieno arriva a circa 1.100 euro, ma per molti lo stipendio si ferma attorno agli 800 euro. Le presunte irregolarità, assicura CONFSAL, sono documentate. Da noi contattata, la Cristoforo, presieduta da Francesco Clementi e aderente al Consorzio Nazionale Servizi di Bologna, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto la notifica della citazione in giudizio e farà una richiesta di accesso agli atti. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine questa mattina anche la conferenza stampa di Andrea Sandra, garante delle persone private della libertà personale, con lui Franco Corleone, già sottosegretario alla giustizia. 180 detenuti, ma i posti sarebbero solo 90, 70 le persone che nel carcere di Udine sono ancora in attesa del primo grado di giudizio. Un giubileo con richieste pressoché disattese. Tossicodipendenza, disagio psichico, salute, affettività sono solo alcuni dei problemi cui il sistema carcerario fatica a rispondere. D'altra parte, lavori di ristrutturazione che porteranno finalmente nel 2006 delle novità. Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, già sottosegretario alla giustizia e garante dei detenuti del comune di Udine. Ci sarà lo spazio per le lavorazioni per i detenuti e per la prima volta saranno assunti per lavori veri, non i lavori all'interno del carcere. Ci sarà l'inaugurazione a marzo o aprile del teatro da 100 posti aperto alla città. Ci sarà subito, prima dell'estate, lo spazio importante per i colloqui e anche la stanza per l'affettività. E in autunno ci sarà lo spostamento della infermeria, che diventerà un'infermeria accreditata per garantire il diritto alla salute, che è un diritto fondamentale. È il problema dei problemi, il sovraffollamento non è più definibile nemmeno come una emergenza. Il garante dei detenuti del comune di Udine, Andrea Sandra. Ce ne sono anche altri di problemi che purtroppo riguardano il carcere di Udine. Uno di questi è il tema sanitario. Sappiamo che la sanità è un problema un po' generalizzato, ma in carcere lo è in maniera particolare e quindi ci attendiamo dalla regione un intervento deciso da questo punto di vista, con l'introduzione di nuovi medici su una copertura che garantisca le 24 ore e anche nei giorni festivi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10 gradi, Gorizia 7, Udine 7,5, Pordenone 8, Forni di Sopra 7,5, Tolmezzo 4,5, Tarvisio e Sappada meno 2, Piancavallo 3, Monte Zoncolan 6, Monte Lussari 7. Grado 6, Lignano 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per questo pomeriggio: cielo sereno, marcata inversione termica nei bassi strati, congelate in pianura e a fondo valle, temperature miti in quota con zero termico elevato intorno ai 2800 metri. Per domani tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso di primo mattino, possibili nubi basse in pianura e sulla costa e in giornata nel Tarvisiano. Sulla costa e nelle zone orientali soffrirà bora moderata, anche sostenuta a Trieste, temperature in calo, soprattutto in quota, con lo zero termico che scenderà dai 2400 metri del mattino fino ai 600 metri della sera. Tempo di bilanci anche per il sindacato autonomo di polizia SIULP, che evidenzia una situazione complessa. Da una parte ci sono significativi risultati, dall'altra però sempre le sempre più gravose carenze di organico che inducono gli agenti a pesanti sacrifici. Sentiamo Francesco Marino, segretario generale provinciale della SIULP di Trieste. La Polizia di Stato continua a rappresentare un presidio centrale nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Abbiamo assistito negli ultimi giorni a dei proclami, delle autocelebrazioni di altre forze dell'ordine. Noi dobbiamo ricordarci sempre però che ci vorrebbero meno passerelle e più sostanza. Il cittadino ci chiede questo, ci chiede più sicurezza, e come polizia veniamo spesso distolti per compiti non propri. Inizierei proprio dall'immigrazione. Dobbiamo ritornare a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè la prevenzione dei reati, il controllo del territorio e la repressione dei reati nell'attività investigativa. E inoltre è anche giusto ricordare i risultati ottenuti, cosa che a nostro avviso non è stata fatta con la dovuta enfasi. Per l'impegno che vi è richiesto, a vostro avviso ci sono carenze d'organico? C'è stato un crollo nel più completo disinteresse negli anni scorsi, soprattutto di tutti i decisori a vari livelli. Sono stati degli irresponsabili, a dir poco, irresponsabili, per usare pure questo termine. Quando c'è stato il taglio delle spese, nell'epoca della spending review, è stato fatto un taglio mostruoso sugli organici, bloccando il turnover, ricordo, quindi andavano in pensione 100, entravano molti di meno, e questi sono i risultati. Abbiamo una macchina che funziona a organico ridotto, il cui risultato non può essere lo stesso, e le dirò di più, il lavoro è aumentato, quindi abbiamo aumentato la richiesta con molte meno persone, e non le dico i sacrifici fatti dai colleghi che spesso rinunciano a passare le festività con i loro familiari magari distanti 1000 chilometri pur di garantire un minimo di sicurezza al cittadino. È una cosa indecente, una cosa inaccettabile a cui nessuno sta ponendo rimedio in alcun modo. A Tavagnacco, nella sede di Confcommercio Udine, presieduta da Giovanni Da Pozzo, si è insediato il consiglio direttivo dei giovani imprenditori dell'associazione. Si tratta di un gruppo con esperienze internazionali che ha come obiettivo di porre al centro Udine, le sue aziende e i suoi talenti, trasformando il territorio in un polo riconosciuto e attrattivo. Si è concluso il progetto europeo Presidium, sviluppato da un consorzio multidisciplinare con la partecipazione della Fondazione Italiana Fegato di Trieste. Modelli matematici predittivi, intelligenza artificiale, dati da biosensori compongono una metodologia innovativa per la prevenzione del diabete di tipo 2. Mira a comprendere e prevedere la transizione dal prediabete alla malattia conclamata, fornendo strumenti concreti per agire prima della comparsa dei sintomi. Un'intenzione che è diventata realtà, quella dei coniugi Luciani, che a Trieste hanno donato un'intera collezione di opere d'arte al Museo Revoltella. Questa collezione è una collezione non mia, che abbiamo, grazie alla Alder che ha costruito mio marito, potuto donare alla città. Un gesto di generosità, un atto di mecenatismo, ma anche una dichiarazione d'amore per l'arte. È quella dei coniugi Luciani, che nel 2024 hanno rilevato per un giorno solo la collezione appartenuta alla famiglia Hauser-Irneri, per poi donarla al Museo Revoltella. 116 dipinti di artisti locali che sarebbero stati dispersi dissolvendo un patrimonio artistico, ma anche identitario, della città. L'ingegnere Luciano Luciani. Quando abbiamo parlato del sovrintendente di questa nostra intenzione, E lui ha detto: guarda che c'è quest'asta particolare, era un'asta molto speciale. Quando abbiamo fatto questa proposta alla casa d'aste di darci il blocco, per loro è stato, non ci ha pensato un minuto. I quadri della collezione abbracciano un periodo particolare della metà dell'Ottocento e primi decenni del Novecento, artisti triestini, se non di nascita, di ispirazione. Ci sono allora i paesaggi di Ugo Flumiani, le vedute di Glauco Cambon e poi Schiavon, Sormani, Giannino Marchig con l'opera principale della mostra. Anna Maria Luciani. Sono tutti molto belli, tutti. No, proprio non potrei dire uno. Sì, forse Timmel, ecco Timmel, sogni, quello è una cosa un po' extra. Anche proprio per chi viene a visitare il museo trova che è un po' diverso dal resto delle collezioni che si trovano già in questo museo. Una mostra che è il ritratto di una città, la storia di un gesto generoso e solo l'inizio di un percorso di ricerca e di esposizione. La curatrice Susanna Gregorat. L'intenzione è quella di giocare proprio su questo numero importante di 116 opere per poterle far girare, poterle far circolare in nuovi allestimenti futuri, ma anche un futuro abbastanza vicino. Ecco, questa è la nostra speranza e lo dobbiamo ai nostri visitatori. Ecco. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tra le mostre più visitate di queste festività natalizie c'è quella accessibile a Trieste dedicata all'autore del Signore degli Anelli, intitolata Tolkien, uomo, professore, autore, un allestimento che esplora la vita dello scrittore, il suo lavoro accademico, offrendo un viaggio immersivo nel suo mondo. Nel servizio l'intervista al curatore Oronzo Cilli. L'uomo dietro il mito. L'uomo è John Ronald Reuel Tolkien. Il mito è quello della saga del Signore degli Anelli. Al Salone degli Incanti di Trieste rimarrà aperta fino all'11 gennaio la mostra che vuole approfondire proprio la figura di chi non fu solo uno degli autori di letteratura fantasy più importanti al mondo, creatore di un mondo popolato da uomini, elfi, nani, orchi. Tolkien fu insigne studioso, filologo, linguista e professore universitario a Oxford, dove insegnò lingua e letteratura anglosassone e inglese. Importanti le sue opere che ancora oggi sono alla base degli studi della filologia germanica nelle università. Tolkien non fa altro che trasportare un po' la sua conoscenza, la sua cultura in quella che poi è stato la costruzione della Terra di Mezzo, quindi il ritorno a grandi echi della grande letteratura nordica che era un po' il suo pane quotidiano all'università. Forse non tutti sanno che a ispirare Tolkien fu anche la terrificante esperienza nella Prima Guerra Mondiale, perché lui combatté nel primo conflitto mondiale. Sì, Tolkien fu uno dei tanti giovani inglesi che si arruolò durante la Prima Guerra Mondiale e fu inviato sul peggior campo di battaglia, cioè il campo della Somme, dove, ricordiamoci, furono le più grandi carneficine del primo conflitto. Fu fortunato perché fu colpito da febbre da trincea, una malattia che lo rese inabile al servizio. Però da quell'esperienza, non solo dolorosa per la perdita di alcuni amici, ma da quell'esperienza ha costruito anche quelle che poi sono anche le battaglie all'interno del Signore degli Anelli. Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il cielo di Piazza della Repubblica, Monfalcone, è divenuto per una sera lo scenario suggestivo in cui la pianista vicentina Lisa Nodari ha offerto ai monfalconesi il suo concerto natalizio dal titolo Piano Sky. Dalla tastiera di un pianoforte a coda rosso fiamma, sollevato a oltre 4 metri d'altezza e ingentilito da un grappolo di palloncini della stessa tonalità cromatica, la giovane concertista ha suonato con una combinazione vertiginosa, alternando le grandi colonne sonore con i classici in una configurazione spaziale ed acustica inedita che ha riempito la piazza di armonie con decine di telefonini in costante registrazione. Passiamo allo sport con il basket per parlare ancora del convincente successo di Cividale sul parquet di Cremona contro la Juve. Un successo per 92-87 che però non basta per agganciare le Final Four di Coppa Italia, dove l'anno scorso Gesteco era arrivata in finale. I Ducali chiudono infatti il girone d'andata al quinto posto, quindi due posizioni in meno della scorsa stagione, con le finali di Coppa che vedono qualificate Brindisi, Rimini, Pesaro e Verona. L'analisi della partita nelle parole di coach Stefano Pillastrini. La partita è complicatissima per il merito di Cremona, che ha giocato con una durezza, un agonismo. Abbiamo iniziato subito molto bene, abbiamo fatto un piccolo break nei primi due minuti e Becchi ha chiamato un time out velocissimo, insolito, no? Vedere un allenatore che chiama time out dopo due minuti è stato molto produttivo, perché loro sono rientrati in campo con un atteggiamento veramente agonistico e ci hanno messo in grande difficoltà. La mia squadra ha preso le misure a questa cosa, tutta la partita comunque siamo sempre stati a inseguire, anche perché a un certo punto Cremona, nonostante facessimo credo una difesa abbastanza efficace, parlo diciamo nel secondo tempo, Cremona ha trovato dei canestri da tre punti in serie, con i lunghi, con gli esterni, con tutti, che hanno rimesso la partita sui loro binari. Nel finale siamo riusciti a imbrigliarli e a costruirci tiro in attacco, cosa che facevamo molto fatica a fare. Forse sull'ultima azione del regolamentare meritavamo qualcosina in più, però è andata bene lo stesso, e nel supplementare siamo riusciti a controllare la partita fino agli ultimi 30-40 secondi, dove come sempre nella pallacanestro succedono mille cose, abbiamo fatto un paio di sciocchezze, abbiamo sbagliato dei tiri liberi, eccetera, abbiamo rimesso in gioco pesantemente alla partita, però siamo riusciti a prendere con grande voglia quella palla finale che non ha permesso alla Vanoli di finire con un tiro da tre punti che poteva impattare la partita. E stasera tocca a Trieste chiudere la tre giorni di basket con la partita più importante di questo turno di fine anno nel massimo campionato. I biancorossi ospitano la Virtus Bologna, si gioca alle 20:30 a Valmaura. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia per la parte tecnica Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.